in primo piano. Un buongiorno a tutti da Lionello Mancini, un buongiorno e un quasi buon anno. Il buon anno vero ce lo scambieremo, comunque io ve lo augurerò tra 4 giorni, il 31 di dicembre, perché staremo insieme in queste 4 mattine di lettura dei giornali. Il 1 gennaio sarebbe bello dirsi buongiorno e buon anno nuovo, ma il 1 gennaio non ci sono i giornali perché il 31 dicembre i giornalisti non lavorano. Bene, cominciamo questa nostra rassegna stampa quindi dai giornali che sono in edicola questa mattina. I titoli principali sono dedicati ad avvenimenti molto diversi tra loro, alcuni che riguardano la politica internazionale, o forse più che la politica direi meglio la società, le società che vivono in altre parti del mondo. A Teheran, come è successo già 20 anni fa, ma con un segno molto diverso, e pare proprio che sia una specie di nemesi storica. Nell'89 ci fu la rivoluzione degli Ayatollah, adesso c'è la società civile che è in piazza, o comunque gli oppositori dell'Ayatollah, con migliaia di giovani che si scontrano con la polizia e chiamano dittatori quelli che li governano. Ricordiamo che l'Iran ha 2 caratteristiche, le caratteristiche sono: la prima, che è uno stato teocratico, e cioè le regole della convivenza della società vengono dettate, o comunque vengono desunte, non saprei spiegare in quale modo, ma vengono desunte dal Corano, il che provoca probabilmente, almeno a mio parere o a parere di molte società occidentali, provoca una serie di problemi anche abbastanza gravi. Insomma, diciamo, lo Stato dovrebbe essere una cosa e i libri sacri, le religioni dovrebbero essere un'altra. Lì stanno facendo una cosa diversa, e adesso però sembra che si stia arrivando verso un punto, diciamo, di svolta. Il Corriere della Sera apre appunto su questo: rivolta a Teheran, morti nelle strade, tra i dimostranti uccisi il nipote del leader dell'opposizione Mousavi. Migliaia di giovani si scontrano con la polizia, centinaia di arresti, le immagini sfuggono alla censura del regime. Quindi questo è il titolo che più o meno troviamo in grande evidenza su tutti i giornali. Il secondo è un titolo invece che riguarda noi, che riguarda l'Italia, ed è quello che è accaduto sul Pordoi, ovvero le 4 guide del soccorso alpino che hanno perso la vita per soccorrere degli alpinisti, degli sciatori imprudenti. Valanghe, sempre il Corriere della Sera, l'ira di Bertolaso, basta con gli sprovveduti. Protezione civile, per salvare 2 turisti perdono la vita 4 guide. Il capo della protezione civile Guido Bertolaso sulla morte di 4 guide del soccorso alpino decedute mentre cercavano 2 dispersi. Di nuovo basta con gli sprovveduti. Il Corriere della Sera ci aggiunge una notazione di tipo più vasto, un articolo di Gian Antonio Stella, uno di quegli articoli in cui Stella obiettivamente è maestro, il parco giochi dei senza regole. Poi ne leggeremo qualche brano. Stella nota come... dice: pietà e lacrime per i turisti uccisi dalla valanga. L'hanno pagata cara l'imprudenza di sfidare la montagna in Valle Lasties, nonostante tutti gli avvertimenti. Requiescant in pace. Ma ha ragione Guido Bertolaso quando, scosso dal dolore e dalla rabbia per la morte di 4 eroi del soccorso alpino, si sfoga. Ecco l'articolo che continua poi a pagina 4, e Stella mette in relazione questa italiana abitudine, consuetudine, brutta abitudine di far sempre finta che le regole non esistano, o se esistono, esistono per gli altri. Questo vale dai parcheggi in seconda fila fino al fatto di affrontare la montagna in un modo tale da mettere a repentaglio la propria e l'altrui vita. Dall'articolo di Stella a pagina 5 del Corriere della Sera leggo ancora: solo la statua di San Gennaro, stando alla leggenda, riuscì a fermare per 2 volte nell'ultimo secolo la lava prima che coprisse i paesi ai piedi del Vesuvio. Eppure, da decenni si continua a costruire proprio lì migliaia e migliaia di case più o meno abusive, al punto che l'ultimo piano di evacuazione prevede, in caso di eruzione, che la gente sia evacuata in 12 giorni. Certe baracche, scrive ancora Stella, tirate su dopo il terremoto di Messina, sono ancora lì, in piedi a ricordare ricordare l'apocalisse di allora e non c'è inverno che qualche fiumara non si gonfi e si rovesci a valle tirandosi dietro qualche casa. Eppure, solo dopo la frana che ha devastato Giampilieri e tanta parte del territorio messinese col suo carico di lutti e di dolore, il governatore Raffaele Lombardo ammette che, virgolette, in Sicilia, soprattutto a Messina, ci sono territori in cui l'equilibrio idrogeologico è fragilissimo. Ancora Stella, e poi passiamo ad altri temi, ma ho trovato, ripeto, interessante come su un discorso di questo, su una vicenda di questo genere, si sia, possa innestare dei ragionamenti di più largo raggio. E come dicevo, Stella penso che abbia colto bene nel segno. Scrive ancora: c'è poi da stupirsi se in un paese così, dove è lo Stato stesso a fare gli scongiuri e ad affidarsi alla fortuna, i cittadini si regolano prendendo sotto gamba le regole. Capita al mare, dove le motovedette delle capitanerie di porto sono impegnate ogni estate a recuperare famigliole finite al largo col pedalò e marinai pasticcioni alla deriva con lo yacht in mezzo ai flutti perché, virgolette, pareva impossibile che il tempo si guastasse, come diceva la radio. E capita in montagna dove, come spiegò qualche mese fa Pier Giorgio Baldracco, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico, c'è chi affronta vette, pareti e canaloni come fossero un parco giochi. Ecco, quindi da questa tragedia ne deriva anche una lezione. Troveremo poi su un altro giornale un punto di vista un po' diverso per quanto riguarda questo sfogo di Bertolaso, un alpinista noto che dice sì, ha ragione Bertolaso, queste persone che sono state così imprudenti se la sono cercata, ma qui c'è anche un problema di soldi alla protezione civile. Restiamo sul Corriere della Sera. A pagina 13, famiglie e imprese, il sole diventa un affare. È una pagina di inchiesta ed è la prima puntata, vedo, a cura di Giuseppe Sarcina, un'inchiesta sull'economia verde, un'inchiesta che per la verità ho già letto su altri giornali come il Sole 24 Ore un po' di tempo fa, però io penso che ci siano probabilmente dei dati più aggiornati che appunto giustifichino questa pagina, e ve la segnalo perché so che molte persone, cittadini e anche imprenditori, sono interessati a questa nuova forma di economia più sostenibile, che crea meno problemi all'ambiente, insomma più in linea con le moderne tendenze di sostenibilità e di salvaguardia del pianeta. Quindi famiglie e imprese, il sole diventa un affare, 58.584 impianti fotovoltaici producono l'1,5% dell'elettricità, un giro d'affari di 3,5 miliardi, ma servono gli incentivi pubblici. La tecnologia che ricava energia dai pannelli installati sui tetti impiega 250.000 addetti, quindi c'è anche un aspetto occupazionale di questa nuova forma di economia. Gli imprenditori cosa dicono? Dicono: impossibile andare avanti senza i contributi del governo. E poi c'è il caso della Spagna. Vi segnalo ancora dal Corriere della Sera un altro tema un po' più, non so se definirlo culturale, comunque insomma diciamo che è a metà. C'è un'intervista di Aldo Cazzullo, una lunga intervista a Christian De Sica. De Sica, io eroe caffone d'Italia, l'attore e la polemica sulla volgarità. Cosa dice De Sica? Dice: è vero, ci sono questi film che sono un po' come dire, di basso profilo, però sono quelli che sostengono tutto il cinema italiano, perché gli incassi che faccio io con questo tipo di film poi si spargono su tutto il sistema cinematografico. Bene, allora cosa dice Christian De Sica ad Aldo Cazzullo? Il famigerato cinepanettone mantiene l'intero cinema italiano. Quanto alla volgarità, è l'Italia di oggi a essere un paese volgare. Io non invento nulla, interpreto personaggi autentici. Dopo la polemica sui film di Natale, opere d'essè, Christian De Sica, sì, la polemica sicuramente l'avrete letto già sui giornali, ma pare che ci sia stata una qualche forma di finanziamento a questo cinepanettone, appunto, qualificato in qualche modo per certi versi come opera d'essè, cioè un'opera di avanguardia, guardia di valore culturale, che insomma lascia un po' perplessi, ammesso che sia vero. Allora dice De Sica: a parte un paio di capolavori, il resto dei film raffinati fa incassi penosi. Le opere dei registi e degli attori premiati dalla critica non le va a vedere nessuno. Poi ammette: nell'ultimo film c'è qualche parolaccia inutile, ne dirò di meno nei prossimi. È un'intervista, ripeto, molto lunga. Il punto di vista mi ha incuriosito, potrebbe incuriosire anche voi, perché a parlare di questi temi è un personaggio conosciuto per così le sue mossette, le sue battute, i suoi ricordi di figlio d'arte. E in questa intervista devo dire che va giù abbastanza piatto. Faccio solamente un esempio. Gli chiede Cazzullo: la fondazione di Fini ne fa una questione politico-culturale, la destra non dovrebbe confondere la popolarità con la volgarità? E risponde De Sica: ma se Fini ha appena detto stronzo in TV, cosa vuole da me? Il punto è che il film di Natale è lo specchio dell'Italia di oggi, cambia come cambia il paese, in particolare la sua borghesia. Ancora, De Sica è figlio d'arte, così come lo sono Gassman e Tognazzi. E la domanda è: nell'ultimo film ci sono altri figli di papà, Gassman e Tognazzi? Guardi, risponde De Sica, io potrei anche essere figlio di Papa Ratzinger, ma se non portassi la gente al cinema mi farebbero correre. Sono felice che siano tornati a recitare insieme Gassman e Tognazzi, che sono bravi, ma a parte il teatro e gli spot hanno fatto l'ultimo film Testa di Cocco tempo fa e senza successo. Insomma. E ancora, Berlusconi come lo trova? Gli chiede Cazzullo. Simpaticissimo. Ho sofferto molto nel vederlo ferito. O lo uccidi, fai la rivoluzione. E posso capirlo, anche se ovviamente non condividerlo. Ma quello è stato un gesto cafone, basso, volgare, meschino, inutile, da Italietta. Questo dunque il De Sica pensiero. Il De Sica pensiero. Nella stessa pagina vi segnalo una notizia curiosa che non vi leggo per passare ad altri giornali, non vi leggo nella sua interezza, e comunque si tratta di una storia assolutamente americana. Il Robin Hood che vince a poker per i poveri sceglie le famiglie bisognose, questo accade a Las Vegas, dai casi di cronaca dei giornali, poi telefona: ho scelto te, ecco $50,000, e così in questo modo va al tavolo, vince e regala questo denaro a persone che hanno delle difficoltà, appunto segue i casi di cronaca su internet, e nessuno sa chi sia, tranne qualche intervistatore di una rete televisiva dell'americana Fox, che l'ha intervistato ma a patto di non rivelarne l'identità. Quindi un Robin Hood che non vuol far sapere chi è. Ancora dal Corriere della Sera, pagina 27. Perché gli Stati Uniti sono più infelici della Grecia? È la presentazione di un libro, il libro di Richard Wilkinson e Kate Pickett, e viene presentato da Michele Salvati, che è un economista nostrano. Il titolo di questo libro è La misura dell'anima, perché le diseguaglianze rendono le società più infelici. La teoria di questo libro, che per la verità si basa su una ricerca, dice dunque, dal titolo si evince che il benessere di uno Stato non dipende solo dal reddito ma dall'eguaglianza. La tesi imperfetta, quindi Salvati la presenta ma la critica anche, di Wilkinson e Pickett. I due epidemiologi hanno elaborato in un saggio un indice della prosperità. Su internet il dibattito ha provocato 250,000 riferimenti, che significa che per l'appunto la gente è interessata a questo tipo di elaborazioni. Ve la leggo qualche riga da questa pagina firmata da Michele Salvati. Ovviamente, perché il confronto tra Stati Uniti e Grecia? Perché gli Stati Uniti sono per antonomasia la prosperità e il paese delle grandi disuguaglianze. La Grecia è in questo momento uno dei paesi più in difficoltà occidentale, più in difficoltà al mondo per i suoi conti pubblici, l'andamento della sua economia. Scrive Salvati: la tesi degli autori è molto semplice. Se si considerano i paesi ricchi, grosso modo tra il reddito pro capite del Portogallo e degli Stati Uniti, quelli in cui il reddito è distribuito in modo più diseguale mostrano sistematicamente risultati peggiori per una serie ampia e significativa di indicatori sociali di benessere, malessere. Per citare i principali: disagio mentale, inclusa la dipendenza da alcol e droghe, speranza di vita, mortalità infantile e molte malattie, obesità, rendimento scolastico di bambini e ragazzi, gravidanze in adolescenza, omicidi, tassi di incarcerazione, mobilità sociale. Ecco, quindi questi indicatori presi come segnalazione dello stato di benessere e malessere di una società indicano che non basta essere ricchi per stare bene. Veniamo al Sole 24 Ore, e le cui prime pagine sono dedicate, le prime 5 pagine sono dedicate a un lunghissimo e dettagliatissimo elenco di cose che cambieranno nel 2010. L'agenda del nuovo anno, dagli ammortamenti ai modelli RED. Ovviamente è una disamina a tutto campo, e ripeto, ci sono 90 voci. L'agenda del nuovo anno, dall'agricoltura all'IVA, fisco, high-tech, sport. Il 2010 si presenta con 100 novità. Famiglie, operatori e pubblica amministrazione alle prese con piccole e grandi modifiche. Ovviamente impossibile leggerle tutte. Vi leggo la prima e la centesima, tanto per cominciare. La prima: semplificazione nei campi, riguarda l'agricoltura. Per l'agricoltura il 2010 sarà l'anno della semplificazione. Arriva infatti il codice unico che impatta sull'attività agricola e quindi sulle figure degli imprenditori agricoli, sulla società agricola, sui contratti agrari, sulle coltivazioni OGM, sulla creazione di aziende agricole. La centesima voce: università, via ai concorsi trasparenti. Si terranno quest'anno i concorsi da docente universitario banditi nella prima sessione del 2008 e bloccati dalla riforma Gelmini contro i trucchi nelle selezioni. Questi concorsi saranno i primi tenuti dalle commissioni a sorteggio previste dalla riforma. Nel 2008 sono stati messi a concorso poco più di 4.500 posti nei 3 ruoli della docenza. In mezzo, tra l'1 e il 100, ci stanno ovviamente tutti gli altri 98 numeri, ve ne qualcuno a caso, cala l'incentivo per il fotovoltaico, al via i voucher per i viaggi, la difesa vende i suoi immobili, la difesa, cioè il Ministero della Difesa, quindi caserme e altri siti, in estate arriverà a compimento la riforma del processo civile. I giudici di pace, il ricorso ai giudici di pace contro le multe, uno delle voci che intasano la giustizia italiana, verranno tassati, cioè si paga per ricorrere. Se poi si perde, uno ci lascia giù il chip. Dal 1 gennaio sale a 61 anni l'età per la pensione di vecchiaia delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione. E ancora, al via i premi riservati ai migliori nei pubblici uffici, posta elettronica per tutti e così via. Calo per le tariffe in roaming, questo riguarda i telefoni cellulari. Insomma, ce ne sono veramente per tutti, e vi consiglio di leggervi questi 100 brevissimi punti, questi flash che, ripeto, riguardano però tutta la nostra esistenza. Troviamo anche, sempre sul Sole 24 Ore, l'articolo di Marco Biscella che parte dalla prima pagina, il calendario dei numeri 1 ignoti e vincenti. Questo articolo segnala quante eccellenze italiane, cioè di italiani, sono state, come dire, segnalate e premiate nel corso del 2009, e poco se ne sa, perché effettivamente, diciamo, da noi non c'è molto questa abitudine di glorificarsi. C'è più, ci viene meglio darci delle gran botte in testa, oppure alla Tafazzi, vi ricorderete questo personaggio di Aldo Giovanni e Giacomo, che insomma preferiva colpirsi e ne godeva pure. Quindi il calendario dei numeri 1 ignoti e vincenti: l'alpino, il sommelier, il barman, l'assistente, l'escursionista, la lunga catena dei migliori dell'anno. Scrive tra l'altro Biscella: una vittoria ottenuta non a caso è quella agguantata da Andrea Balleri, capo barman della Grotta Giusti Natural S.P.A. Resort di Monsummano Terme a Pistoia, premiato come barman 2009, ma già 7 anni fa si era messo in luce vincendo i titoli mondiali Bacardi, eccetera, eccetera. ci segnala i casi di una Cristina Zodda, trentenne di Venetico Marina in provincia di Messina, premiata per la bravura dimostrata in Afghanistan nell'agosto del 2008, quando nei dintorni di Kabul la sua pattuglia veniva attaccata e lei con prontezza prestava soccorso al veicolo che seguiva coinvolto in un'esplosione. E questo dunque per quanto riguarda una esponente della protezione civile. A evitare, dice ancora Biscella, a evitare l'amplen al femminile nel regno di Bacco è stato Urano Carpini, chiedo scusa per la pronuncia, dell'azienda Val di Piatta di Montepulciano, eletto miglior cantiniere dell'anno. Ancora, in Italia un riconoscimento non viene negato nemmeno al cuoco dell'anno, Cristian Mometti, al pasticcere Gino Fabbri, al professionista dell'ospitalità Giuseppe Caiozzo, al ristoratori, eccetera eccetera. Quindi un lunghissimo elenco di persone che si sono distinte, che hanno meritato di essere premiati per essere il meglio in un certo settore. A pagina 27 del Sole 24 Ore si parla di servizio civile al nodo dei fondi. In eredità al nuovo anno la definizione dei criteri di ripartizione dei ruoli di gestione fra lo Stato e le Regioni. Per i finanziamenti prevista una riduzione a 170 milioni nel 2010 e a 125 nel 2011. Questo articolo di Paola Springhetti illustra un problema che è sorto, una delle conseguenze del federalismo che si va affermando in Italia. Fino adesso la protezione, il servizio civile, cioè quel servizio che ha sostituito la leva obbligatoria, è stata appunto in qualche modo omologata alla leva e quindi a questa attività che faceva capo allo Stato centrale, cioè quello della difesa, mentre invece le regioni e anche gli enti, anche i gruppi che fanno servizio civile chiedono di essere legate alle regioni. Questo per creare una maggiore efficienza. La cosa che segnalo sono questi dati aggiornati sul valore del servizio civile, che vede impegnati in Italia 17.112 giovani per un valore, chiamiamolo così, di produzione di 171 milioni di euro. Dove sono distribuiti i giovani del servizio civile? Soprattutto 8.740 nell'assistenza, seguita dal campo nel campo artistico e culturale 3.390, nell'educazione e la promozione culturale 3.900, e poi ancora ambiente, protezione civile, all'estero. Ecco, insomma, migliaia di giovani che affrontano questa esperienza di servizio al proprio paese e intanto si fanno anche un'esperienza e vanno a integrare, in qualche caso veramente credo anche a sostituire quello che dovrebbe essere il ruolo dello Stato in questi campi. Ancora dal Sole 24 Ore, poi passiamo a Repubblica. La sezione norme tributi si apre con spiegazione sui problemi del modello RVW. Il modello RVW è quello in cui si dichiarano i beni detenuti all'estero ed è una conseguenza della recente operazione sullo scudo fiscale. Ci sono ancora dei problemi da chiarire e non è tutto così perfettamente a posto. Ci sono dei dubbi che il Sole solleva. Quindi nella sezione norme e tributi del Sole 24 Ore in edicola oggi. La Repubblica, anche la Repubblica, lo dicevo, bagno di sangue in Iran è il titolo principale del giornale. Negli scontri 10 vittime, tra loro il nipote di Mousavi, condanna degli USA. A Teheran, nel giorno dell'Ashura, l'Ashura è una festa religiosa sciita in cui le persone si flagellano, si tagliano in modo da far sgorgare il sangue, violenze tra migliaia di oppositori e le forze di polizia, arrestate 300 persone. Questo dunque il titolo di apertura, appena sotto, valanghe, troppi morti causati da sprovveduti. L'ira di Bertolaso dopo la sciagura in cui ha perso la vita, in cui hanno perso la vita 4 tecnici del soccorso. Il cordoglio di Napolitano. Ecco, sulla situazione in Iran vi segnalo l'articolo di Renzo Guolo nella prima pagina della Repubblica, che dice come nel 1978, ai tempi della rivolta contro lo Shah, la Shura è stata davvero il giorno del sangue, e come allora non si tratta di quello versato nei cortei dei flagellanti che si battono con catene e trafiggono con lame la testa, braccia e petto, trasformandosi in maschere di sangue. Nella passione che ricorda il sacrificio di Hussein, terzo imam della Shah ucciso a Kerbala dal califfo sunnita Yazid, morte che caratterizza lo sciismo come religione del rifiuto dell'ingiustizia, il sangue che segna la ricorrenza è quello dei manifestanti uccisi. E gli scontri sono stati veramente molto violenti, e un altro giornale, Franco Venturini sul Corriere della Sera, su questo tema fa notare come a Teheran la protesta antiregime è ormai un movimento di massa, ma non di una massa qualunque. I filmati sfuggiti alla censura mostrano che i dimostranti sono quasi tutti giovani, e se questo è un elemento importante ovunque, lo è in particolare in Iran, dove 48 milioni di cittadini, cioè la maggioranza della popolazione, ha meno di 33 anni. Questo dunque troverete molto ampiamente illustrato sui vari giornali. Ci sono anche delle foto impressionanti, segnalo quella della ragazza stretta contro una saracinesca chiusa e due poliziotti davanti che sembrano degli UFO robot con i manganelli in mano e fanno presagire delle violenze contro questa persona. E sempre su Repubblica, per quanto riguarda la polemica sulle valanghe e sulla morte degli alpinisti e dei soccorritori, dicevo prima, una voce fuori dal coro, che è quella di Tony Valeruz: queste polemiche fanno ridere, spendiamo meglio i soldi per i soccorsi. E dice, non condivide Valeruz lo sfogo di chi è stufo di vedere soccorritori morire per degli sprovveduti. Condividerei se Bertolaso facesse quello che dovrebbe fare, spende milioni di euro per la protezione civile, ma non trova i soldi per dotare il soccorso alpino di apparecchi per il volo notturno. In Svizzera ci sono, lì queste persone non sarebbero morte. Anche chi può agire non agisce, e chi può agire e non agisce ha responsabilità. Bene, con questa segnalazione si chiude la rassegna stampa di questa mattina. Io vi do appuntamento a domattina alle 7:30. Buongiorno a tutti.